Io pesco queste mail perché, ti ripeto, sono delle miniere. La prima era, secondo me, il migliore in campo di oggi, ma anche questa non è male. Andrea Dolci, tra l'altro questo è un cliente in senso buono, nel senso che è un corrispondente periodico. Da milanista puro sangue, credo di aver rivisto nel Barça tutti i limiti di un certo Milan. Senti che bella questa frase: calciatori da piede raffinato, lampi di gioco, ieri più sperati che visti, ma la incapacità assoluta di adattarsi alla partita, il tutto declinato, leggo pochi articoli così sui giornali di oggi, il tutto declinato in un possesso palla di una imbarazzante sterilità, non appena viene meno il dinamismo complessivo della parte alta della squadra. Ieri sera vedevo Zambrotta che la dà a Gattuso, che la passa a Pirlo, che la gira ad Ambrosini, che la passa a Ronaldinho, il quale si avvita e la ridà ad Ambrosini, che la rigira a Pirlo, la ripassa a Zambrotta, la gira a Seedorf che la passa a Pirlo, e chi difende sta lì a controllare. 60 minuti, vedo un milanista al di là dal vetro che sta annuendo vigorosamente, 60 minuti in 10 senza un minimo accenno di crampi, è un complimento al preparatore dell'Inter, ma la dice anche lunga su quanto il Barça abbia realmente impegnato i nerazzurri. Conclude Andrea Dolci dicendo: il Barça può raggiungere la perfezione a patto di cambiare quella specie di inutile pilone della luce svedese che sta al calcio manovrato come Ronaldinho a un raduno di mezzofondisti, e di mandare Guardiola un po' a lezione da Fabio Capello. Con un po' di cinismo e di umiltà questo Barça potrebbe essere veramente perfetto e forse al limite dell'imbattibile. Capisci che razza di editorialisti abbiamo noi da Tempo di Sport, Fabio?